Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese, le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti, no case. Dunque, le frequenze sono 98,6 per la bassa veronese zone della Lessinia e 101,5 per Verona città e rimanente provincia. Radio RCS la potete ascoltare anche in streaming e in podcast dal sito www.radiorcs.it. Rimanendo sempre in tema di New Wave, ci spostiamo dal filone dark per andare verso sonorità più pop. La prima canzone era Radios in Motion degli XTC, la eclettica band di Andy Partridge che esordì con il disco White Music del 1978, da cui abbiamo ascoltato questo brano. Una band che nonostante sia sempre in attività non ha ricevuto i meriti che avrebbe. Che ne pensate? Beh, innanzitutto concordo e penso di trovare anche l'opinione dei miei colleghi no kids. Sicuro. Credo che XTC rappresenti in un certo senso la storia delle fortune alterne che ci sono state un po' per tutte le band. Non sempre la fortuna è legata al merito di lyrics, di testi, piuttosto che di armonie o melodie. Dipende purtroppo da troppe cose, troppi eventi. Basta anche una piccola discontinuità nella produzione, il pubblico magari si distacca e quant'altro. E poi c'è tutta la dinamica della discografia che insomma spesso premia, spesso no, e certe volte è un po' più cieca del dovuto. Non basta anche avere sfiga, insomma, cioè tante... Cercavo di non dirlo, ma il concetto sotto sotto era quello. Ci abbiamo girato intorno, dai. Hanno avuto sfiga. The Regency è il titolo del vostro disco. Quale il significato che avrete voluto dare? Beh, innanzitutto The Regency significa la reggenza, è un periodo di transizione tra un regno e l'altro. È un periodo non facile in cui si sa cosa è già successo, ma non si ha un'idea ben chiara di quello che succederà nel futuro. Noi, quando abbiamo registrato l'album, ci trovavamo a trascorrere insomma delle esperienze personali piuttosto intense e veramente difficili per un modo o per l'altro. E quindi abbiamo pensato di riflettere nel nome dell'album quelle che erano le nostre esperienze personali, semplicemente. L'Inghilterra degli anni Ottanta ha visto tra le sue band più note gli Smiths, alfieri della working class di Manchester e accaniti oppositori di Margaret Thatcher. Ieri ascoltiamo dal disco Meet His Murder del 1983 con Headmaster Rightall. Yeah. I Smiths non hanno ancora smesso di influenzare le band inglesi di oggi. Secondo voi, quali sono i fattori che li rendono ancora fonte di ispirazioni per le band? Ma perché sono i migliori? No, io sono molto, molto, molto appassionato di Smiths. Però ecco, a parte la passione personale, un po' potremmo anche riallacciarci al discorso che abbiamo fatto prima per Siusi, cioè band che sono riuscite in qualche maniera a penetrare così, così sotto la pelle del mondo musicale da diventare imprescindibili. E poi anche forse nel caso degli Smiths e anche di Morrissey da solo, un'attitudine punk non così apparente, però molto molto presente, soprattutto nel modo di raccontare certe cose in certi testi, estremamente crudi, estremamente coraggiosi, però sempre cantati con queste melodie così belle e apparentemente, come si dice, innocue, ecco, da essere davvero speciali. Quindi insomma, pensano anche nello stesso disco, c'è Girlfriend in a Coma, no? Che parte, sembra una filastrocca tutta allegra. E poi, non lo so, la chitarra, il modo di suonare, la voce di Morris. Posso permettermi di aggiungere ancora una volta, ci troviamo davanti ad una personalità impressionante del leader del gruppo. Cioè, è una divinità, non è un essere umano. Cioè. Adesso se ti sente Johnny Marvin a cercarti il leader del gruppo. Vabbè, dai, è il leader carismatico. No, certo. I No Keys hanno avuto la fortuna di poter suonare all'estero e precisamente in Svezia. Raccontateci questa esperienza e cosa ne avete portato a casa di positivo. Beh, quello che abbiamo portato a casa di positivo è forse l'immagine di un mercato musicale veramente in crescita, sano e che ha molta curiosità. Penso che l'esperienza positiva possa riassumersi in un'immagine di un piccolo cartello affisso al di fuori dei locali dove abbiamo suonato, che forse riassume il tutto. Era una scritta che recitava "No cover band please", cioè nessuna cover band qui dentro. Questo ti dà un po' il polso di un mercato dove il pubblico ha voglia di andare a sentire del nuovo, cerca del nuovo, paga per del nuovo e ha del nuovo. Incredibile. Sì, davvero. Chiudiamo allora la seconda parte con gli americani Dream Syndicate. Il suono New Wave negli Stati Uniti era influenzato da un recupero dei 60s e di Velvet Underground, influenze che ben si sentono nel suono della band di Steve Wynn, che ascoltiamo nel disco The Days of Wine and Roses con la canzone Tell Me When It's Over. Noi torniamo dopo la pubblicità con i No Keys, che ci faranno ascoltare 6 canzoni dal loro disco The Regency, non mancate. Man,